Hãy gọi Jesse, cả nume pare a te zume, vravi che proi. Hãy gọi Jesse, per la metto sore a gina me, o mara fovei. Super stibarea, o la via fără tica. Hey,